Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. La rosa purpurea di Franco D'Assisi. La rosa purpurea di ottobre, mese di cinema di solito, almeno quest'anno le cose vanno un po' così. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è l'ora di cinema di Radio 24. Le cose vanno un po' così perché, insomma, le ultime notizie, come dire, come sapete, non sono bellissime per quanto riguarda la pandemia, ma è stato anche un tema, il tema centrale delle giornate del cinema de sé, che si sono svolte in tutta sicurezza a Mantova in questa settimana. Il cinema continua a essere, incrociamo tutto quello che abbiamo da incrociare e toccate tutto quello che avete da toccare, ma il cinema continua a essere un luogo super sicuro. Già dalla mostra del cinema di Venezia, per esempio, non c'è stato alcun caso di positività. Nei cinema per il momento non è scoppiato alcun caso di positività. Insomma, se andate al mercato, vi state addosso uno con l'altro, magari anche sui mezzi, o fate addirittura aperitivi con amici che sono più pericolosi del cinema, ecco, al cinema potete andarci. E andateci, perché qualcosa da vedere c'è. Ne parliamo fra poco con Boris Sollazzo. A proposito di Mantova, avremo poi le voci di Ferzan Özpetek e di Elio Germano, che sono stati due dei vincitori dei premi del cinema de sé assegnati a Mantova, e sarà con noi invece fra poco Stefano Accorsi per raccontarci la sua partecipazione a Lasciami Andare, un altro dei film che esce in questo fine settimana. Dicevamo però cinema anche grosso nelle premesse, è quello che arriva in questa settimana in sala, a cominciare da un film catastrofista, vedremo se solo catastrofista o anche un po' catastrofe, che si intitola Greenland. Oggi l'unico argomento di cui le persone vogliono parlare è Clark, la cometa sì, interstellare. È la notizia ormai del giorno. Non riesco a vedere Clark. Magari sta ancora dormendo. Due giorni. Si sono sbagliati, i frammenti sono tanti, ci distruggeranno. Le agenzie spaziali prevedono un'estinzione di massa. Resteremo insieme, capito? Giuro che porterò la mia famiglia in quel bunker. Se state ascoltando questa trasmissione, cercate subito un rifugio. Insomma, Greenland, potremmo dire, appunto, e la trama potrebbe anche finire lì, storia di una cometa che si sta per abbattere sul pianeta Terra e distruggerlo. Quante volte l'abbiamo visto questo plot? Questo film con Gerard Butler protagonista entra in quel filone, ma diciamo non esce più, nel senso che non si muove particolarmente in questa storia di questo ingegnere edile in crisi con la moglie, che durante una festa per il figlio cerca di riconquistarla, ma insomma la cometa non è d'accordo e sta per abbattersi sulle loro capocce. Noi siamo in collegamento con Boris Sollazzo, che si è schivato dalla cometa e quindi è ancora con noi. Ciao Boris. Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, dicevamo disaster movie o movie disaster? Perché mi sembra che questo Greenland non aggiunga davvero nulla, cioè alla fine l'aspetto familista è quasi più importante dell'aspetto catastrofista. Beh, come diceva un grande filosofo del nostro tempo, ovvero quello, la seconda che hai detto, movie disaster, perché devo dire che mai come in questo caso ho tifato fortissimo per la catastrofe, ho tifato per la cometa, perché arrivasse non dopo due ore, in realtà poi i frammenti di cometa arrivano sulla Florida molto prima, ma che arrivasse subito e colpisse questa famiglia che secondo me era proprio l'obiettivo della cometa, che voleva insomma salvare il mondo da la tipica famiglia americana, anche se poi non sappiamo quasi niente, perché per due ore invece di magari divertirci a sfuggire insieme ai protagonisti alla cometa, noi ci preoccupiamo di più di questo menage interrotto tra moglie e marito, di una donna che insomma interpretata da Morena Baccarin, che lo ama come padre ma non come marito, non si capisce di che colpe si possa essere macchiato, e in fondo ti sta salvando avendo appigli presidenziali, agganci col presidente, ti sta salvando da una catastrofe. Nonostante questo lei continua insomma a tenerle il broncio, a tenerle il muso. D'altronde è anche una donna straordinaria, che nel momento in cui sa che arriva una catastrofe si preoccupa comunque, da brava massaia, da brava casalinga, di fare i sandwich con la marmellata. Quindi insomma stiamo parlando di un personaggio scritto meravigliosamente, e ovviamente c'è tutta l'ironia possibile in tutto questo. Il problema di Greenland questo, cioè che ha innumerevoli momenti di umorismo involontario, che in un film catastrofista, come potete immaginare, è qualcosa che è davvero di disastroso, perché dovrebbe costruire tensione, dovrebbe costruire un'emotività molto forte, e ovviamente se succede il contrario perdi ogni volta quella potenza di fuoco che potresti avere, e quindi insomma veramente Greenland, dove lo vedi, è un disastro. Insomma, abbiamo capito alcune cose di Greenland, che potrebbe riciclarsi come film comico, che forse vale la pena essere visto proprio per questo, e che in fondo vuoi non portarti dietro dei panini con la marmellata mentre la cometa ti sta battendo, almeno muori più felice. Boris, rimani con noi, perché fra poco saliamo di livello, almeno come godibilità del film. Parliamo di Un divano a Tunisi. Adesso vi abbiamo. La rosa purpurea. Sono venuta a Tunisi per lavorare. A fare che? Non c'è lavoro qui. Aprirò il mio studio sul tetto. Uno studio di psicanalisi qui a Tunisi? Hai visto la sfilza di nevrotiche che c'è nel mio salone? Con me diventerai milionaria. Non voglio dei pazzi in casa mia. Non vi disturberanno affatto, i nevrotici sono persone educate. E questo sarebbe un SUV. Dietro ci puoi mettere anche tutta la casa se vuoi. Voi donne avete sempre un mucchio di cose. Anche mia moglie è così. Me ne frego di sua moglie. Anch'io me ne frego di mia moglie. Strade piene, la folla intorno a me. Città vuota di Mina, dentro la colonna sonora di Un divano a Tunisi, di cui avete sentito all'inizio un passaggio, una clip, un altro dei film che arrivano in sala in questo fine settimana dopo un passaggio piuttosto fortunato durante le arene estive nel mese di agosto. È stato un film molto apprezzato in queste anteprime all'aperto, Un divano a Tunisi, che adesso trova finalmente la via della sala, tra l'altro con 140 schermi a disposizione, quindi con una certa capillarità. La regia è di Manel Labidi Labbé, è una regista francese di origini tunisine, con protagonista assoluta Golshifteh Farahani, un'attrice di grande capacità diciamo, e grande possibilità di mutare proprio il suo volto e le sue corde, le sue cifre a seconda della situazione, molto molto come dire, fluida nella sua recitazione. E lei ha il ruolo di Selma, la psicanalista 35enne protagonista del film, che lascia Parigi e gli agi di una vita da psicanalista affermata, comunque avviata in quel della capitale francese, per tornare nella sua Tunisia, nella sua Tunisi, in periferia di Tunisi, per tornare lì dove una rivoluzione, quella dei Gelsomini del 2010, ha comunque portato il paese verso una maggiore libertà, una maggiore possibilità anche proprio di esprimersi con la propria professione. Però la Tunisia è un paese, sembra dire il film, tosto da analizzare, non si fa analizzare, non vuole mettersi sul lettino dello psicologo, e qui nascono tutte le situazioni soprattutto comiche di questo film, che ha nella chiave della commedia e della leggerezza il suo punto di forza, quello di analizzare, in realtà di mettere sul lettino dello psicanalista un paese intero, questa Tunisia che ne ha bisogno, ne ha tanto bisogno, ma in fondo è ancora un po' recalcitrante, perché gli anni sono ancora pochi per poter far vincere una corrente culturale diversa. E però Boris Sollazzo mi sembra un'operazione divertente, interessante, riuscita proprio perché riesce a essere letta e leggibile con diversi piani e con diverse sfumature. Riuscitissima, secondo me il film della settimana, e non lo definiamo capolavoro forse perché è un po' come quei campioni di calcio che rendono semplice ogni tocco e non sembrano virtuosi, però è davvero un film che a mio parere raggiunge quasi la perfezione nel suo essere leggero, anzi meglio lieve, nel raccontare però riflessioni estremamente profonde. La Labidi ha un tocco in regia che raramente abbiamo visto, e che probabilmente unisce le sue origini medio orientali con il gusto della commedia sentimentale francese. Hai usato una definizione definizione perfetta, che è quella di mettere un paese sul lettino dello psicanalista, perché quello che capisce questa regista immediatamente è che parlare frontalmente della rivoluzione dei Gelsomini e della sua eredità negli ultimi 10 anni è fondamentalmente impossibile, perché quella primavera che poi ha sconvolto con uno tsunami tutta quella regione ha in sé una quantità di contraddizioni enormi, positive e negative, che hanno in qualche modo destabilizzato non solo la collettività ma i singoli individui. E con la trovata che abbiamo visto per esempio anche in Israele e poi in America e poi anche in Italia di In Treatment, decide di guardare il cuore, il cervello, la pancia di quel paese attraverso la singola analisi delle persone. Ovviamente questo porta, ed è questa la grande intuizione, anche a momenti di straordinaria comicità, a momenti di divertimento che sono momenti di genuino divertimento. Si ride in questo film, si ride anche di cuore, ma si sorride anche e si riflette. Ci sono anche dei momenti estremamente malinconici, e anche quando la cineasta cerca con la grammatica cinematografica di andare oltre, penso per esempio al momento onirico con lo psicanalista ebreo, riesce a trovare lo spartito giusto, riesce a trovare il ritmo giusto, riesce a trovare il momento e la bellezza del racconto anche in situazioni più complesse. Alla fine credo che lei, credo che la Farahani, credo che la regista, credo che noi spettatori sappiamo più della Tunisia alla fine di questo film di quanto avremmo potuto sapere leggendo libri di storia, leggendo articoli di giornale, guardando un'inchiesta giornalistica. E in più è un gran bel film. E allora, un gran bel film, Un divano a Tunisi, molto bene. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Buon cinema che va avanti alla Rosa Purpurea. Fra poco parliamo di Paradise, Una nuova vita, e sentiremo il regista, il protagonista, Vincenzo Nemolato, e poi Stefano Accorsi fra poco con noi a parlare di Lasciami andare. Prima però giochiamo insieme con la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Il sorriso è il segno che ce l'abbiamo fatta. Il sorriso. Che film è questo? Non è un film. E che è? Madre Teresa di Calcutta. E allora Un dialogo, invece, questo è un film per il momento misterioso che dovete indovinare, un grande successo della scorsa stagione. La Rosa Purpurea, @radio24.it, come sempre il nostro indirizzo email a vostra disposizione. Scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo, perché ci sono due copie di questo DVD che vi aspettano, e più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Quindi non ti ha visto? Allora vuol dire che non ti ha riconosciuto. Ma tu hai visto lui e sei pronto a testimoniare. Ti spediranno da qualche parte. Chissà come, lo so. Parli italiano? Italiano, capisci? Sono italiano, siciliano. C'è qualcuno qua? E certo che c'è qualcuno, è un residence. È mica tutto tuo. Qua siamo a un passo dalla morte. D'altronde si vive rischiando. Mi hai trovato. For days I just can't sleep. Anche in questo caso sono le note della colonna sonora del film Paradise, il film diretto da Davide Del Degan con Vincenzo Nemolato protagonista, ad accompagnarci nel racconto di questa che è un'altra delle uscite di questo fine settimana. Un film particolare che mischia molto i generi tra il drammatico, il comico, il grottesco, il surreale. La storia di Calogero, venditore di granite, che in Sicilia, nella sua terra natia, assiste suo malgrado a un delitto di mafia, testimonia, fa un atto di coraggio, va a testimoniare, e per questo deve di fatto essere protetto, entra nella protezione testimoni, viene spedito sulle montagne delle Alpi friulane, dove le sue granite, come dire, non sono proprio il genere più ambito, e anche inverno peraltro, e quindi deve un pochino cavarsela tra il nascosto, il timoroso, ma anche il voglioso di entrare in contatto con quel popolo così distante dai siciliani e dalla natura dei siciliani. Però sarà un signore che del posto che balla il cosiddetto Schuplattler, io spero di averlo detto bene, ma insomma, sapete quel ballo tirolese in cui si prendono a pacche sul sedere, in faccia, tirano sberle a destra e a sinistra? Ecco, quella cosa lì lo farà cambiare, lo farà entrare in un clima diverso, lo farà entrare in un mondo diverso del quale Calogero in fondo si innamorerà. E allora, è un film, come dicevo, molto particolare. Lo abbiamo affrontato, ne abbiamo parlato proprio con Vincenzo Nemolato, che abbiamo incrociato a Torino, all'ultimo Torino Film Festival, dove il film era stato presentato. Sentiamo cosa ci ha raccontato proprio sulla storia di questo film, su come è nata la sua costruzione del personaggio protagonista di Paradise. La sensazione che ho avuto, anche per la città, il quartiere da dove provengo, è che si vive spesso in una zona grigia, e questo il personaggio di Calogero lo sa, solo che ci sono alcune situazioni in cui vieni chiamato a prendere posizione, che talvolta è bianco o nero, cioè bene o male. E in questa situazione Calogero, con i suoi principi e la sua storia, si è trovato a chiedere che cosa fare, e ha scelto di fare appunto la cosa giusta, provando ad essere coraggioso per imparare ad esserlo, dato che non è uno che ha avuto atteggiamenti eroici nella sua vita, è una persona normale che però vive di principi ai quali non è disposto a rinunciare per poterli passare a sua figlia. Arrivato su al nord, tu tenti di vendere lo stesso le tue granite, sì. No? In mezzo al niente, in mezzo alla neve, cioè è un personaggio che fa fatica a capire dov'è e ad accettare forse anche dov'è, prima ancora che a integrarsi, manco ci arriva l'idea di integrarsi, è altro rispetto a quel posto, però l'arrivo dell'altro confinato, diciamo così, così opposto a lui, mette in moto dei meccanismi. È un film anche nel quale il tema forte è quello di guardarsi dentro e di capire chi si è veramente, no? Esattamente, ma hai colto un punto molto interessante, perché poi Sauris diventa il non luogo dove questi due personaggi, con poi anche lo stesso nome in codice, riescono a conoscersi senza i pregiudizi e i meccanismi che li legavano alla società precedente. Però lui poi si porta il carretto delle granite, ovviamente è troppo legato alla sua terra, come poi magari tutti lo sono, ma poi noi del sud lo siamo in maniera ancora più viscerale, e quindi appunto l'integrazione per lui è una chimera. Quando appunto arriva il killer, si innesca una catena di meccanismi che poi fanno partire una nuova amicizia che cambierà per sempre la vita di tutte e due. Vincenzo Nemolato, protagonista del film di Davide Del Degan, Paradise, Una nuova vita. Adesso pubblicità, fra poco con noi Stefano Accorsi per parlare di Lasciami Andare. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. La rosa purpurea. Lei ha perso un figlio. È stato un incidente, vero? Io e Anita aspettiamo un bambino. Nascerà la prossima estate. Non ce la faccio. Mio figlio Giacomo ha confessato che nella sua stanza appare un bambino. Tu con la casa non ci devi più andare. Non dovrebbe giocare così con le persone. L'ho forse obbligata a fare qualcosa. Ma è così difficile per te accettare la verità? Le situazioni, le atmosfere, le suggestioni di Lasciami Andare di Stefano Mordini per aprire la terza parte della Rosa Purpurea, il film più importante in termini anche proprio di distribuzione di questo fine settimana, che arriva nelle sale in oltre 300 sale, in oltre 300 schermi, con un cast importante: Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Lino Musella, Antonia Truppo e Stefano Accorsi, il protagonista di questo film, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Stefano! Ciao, buongiorno e buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. A parlare di questo film, Lasciami Andare, raccontiamone un attimino la storia. Una coppia che è stata felice, che ha vissuto in una casa, una splendida casa veneziana, con una particolare stanza nella quale le ombre delle gondole del Canal Grande si proiettano. Quella casa diventa però qualcosa di diverso nel momento in cui il bambino lascia questa terra, e il tempo passa, i due protagonisti non sono più in grado di sopravvivere come coppia a quel a quel momento, ma quella casa, diciamo così, sembra quasi respirare quelle atmosfere, essersi di fatto impregnata di quelle presenze. C'è già nel racconto una vena di mistero molto forte, una vena noir molto forte, insieme all'introspezione drammatica dei due protagonisti. Ecco Stefano, parto da qua. Un film anomalo per il cinema italiano, questo di Stefano Mordini, perché non ci siamo avventurati, non ci avventuriamo troppo spesso a tingere di tinte anche thriller, se vuoi, o comunque spirituali, un film dall'impianto solidamente drammatico come questo. Sì, assolutamente. Diciamo che si può definire un film che ha un film di genere, appunto un thriller psicologico, un mystery per certi aspetti, però con un copione molto solido, molto secondo me ben scritto, con dietro la macchina da presa però un autore che quindi innesta, diciamo, nel thriller anche una profondità di personaggi, una complessità della vicenda proprio con uno sguardo autoriale, cioè con personaggi complessi. Noi in Italia non lo facciamo spesso, probabilmente diciamo che in passato esploravamo di più il genere, però questa ibridazione secondo me non era e non è così comune. Io parto da un presupposto: secondo me i grandi film di genere vedono sempre dietro la macchina da presa un grande autore, perché per me Michael Mann è un grande autore, Alfred Hitchcock è un grande autore, ma anche Clint Eastwood, per me, che ogni tanto fa dei film di genere, è un grande autore. Credo che alle volte, cioè, la sceneggiatura, anche quando è più tra virgolette rarefatta, deve sempre partire da un grande discorso di solidità e di concretezza. Penso ad alcuni film come Parasite o alcuni film come Una separazione, in qualche modo restano film di genere, però è più difficile definire a quale genere appartengano, ma dietro la macchina da presa c'è sempre un autore che ha uno sguardo importante sui personaggi. Ecco, Stefano, la perdita del figlio è probabilmente l'elemento, anzi sicuramente l'elemento di volta nella storia dei protagonisti, nella loro vicenda umana. Cosa ti ha colpito di più leggendo la sceneggiatura nel tuo personaggio? Questo aspetto, diciamo, più realista, fra virgolette, o più le atmosfere, appunto, a tinte thriller psicologico, che tanto rimandano anche a un certo cinema americano degli anni 80-90, che era molto capace di frequentare questo tipo di genere? Sì, ma guarda, entrambe le cose, nel senso, io conoscevo Stefano Mordini, il regista, perché abbiamo fatto il suo primo film insieme, Provincia Meccanica, avevo già lavorato con alcune delle attrici fantastiche, degli attrici soprattutto e attori di questo cast, e però devo dire mi hanno colpito le due cose, sia questo aspetto, sapevo che avremmo potuto lavorare in una certa direzione sui personaggi, ma anche un copione molto, molto solido. Quindi mi piaceva proprio questo tentativo di ibrido, però era fondamentale che gli appuntamenti da thriller funzionassero, e secondo me in quello c'è stata una grande attenzione e non l'abbiamo mai perso di vista. Ci siamo concessi di improvvisare sia con la macchina da presa che in recitazione ogni qualvolta avevamo uno spazio fra due appuntamenti importanti, però mi piace tentare anche strade diverse, mi è sempre piaciuto, insomma. Sta succedendo una cosa inquietante. Non è una coincidenza, è un segno. È deciso di credere a quella donna. Quello che è successo quel giorno non è colpa sua. Ancora una clip da Lasciami Andare, siamo in collegamento con Stefano Accorsi. Stefano, parliamo della realizzazione del film, proprio del set. Per esempio questa sorta di camera oscura che alberga in questa casa, cioè hai avuto la sensazione comunque di stare su un set che aveva anche poi a che fare con momenti, immagino, di post-produzione, di sistemazione dell'aspetto, dell'effetto speciale, eccetera, cioè su un set dove non tutto si svolgeva lì, cioè com'è stato? Ma guardi, in realtà è stato un set molto analogico, diciamo, a parte alcuni momenti, e poi devo dire che per esempio anche l'acqua che si vede, noi abbiamo girato a Venezia novembre-dicembre del 2019, quando c'è stata quella grandissima altissima marea alla quale nessuno era preparato, quindi abbiamo dovuto cambiare un po' il programma, però siamo riusciti ad andare avanti, e devo dire che abbiamo immortalato una Venezia unica, e alla fine credo che sia, l'abbiamo vista in tante televisioni quella Venezia, vederla in un film che come tutti i film può restare di più nel tempo, secondo me dà all'atmosfera, proprio racconta qualcosa di unico, di atipico, e vivere anche in quel momento così difficile per la città durante il film è stato, credo che in qualche modo si abbia impregnato il film, ma guarda, in realtà anzi sentivo proprio la matericità delle scene, perché ripeto, Stefano Mordini, il nostro regista, chiedeva molta presenza e fisicità agli attori, non, oltre all'interpretazione emotiva, e quindi anche non dovevamo proiettarci più di tanto in una situazione che poi sarebbe stata completata. Poi sai una cosa, giravamo spesso con la musica di Nick Cave in particolare, e quello comunque ti crea un grande coinvolgimento emotivo. Tra l'altro la musica nello sport professionista non si può, professionale, non puoi usarla perché è doping, quindi voglio dire, ti smuove veramente qualcosa di importante. È il doping che ci piace di più, però devo dire. Ma certo. Stefano, un'ultima cosa, 332 se non sbaglio sale cinematografiche a disposizione, schermi per uno dei momenti più difficili, insomma, del cinema in sala, che per noi qui alla Rosa Purpurea è il cinema, è l'unico cinema probabilmente che amiamo. Cosa ti senti di dire al pubblico, insomma, perché ecco, lo sforzo di portare in sala film importanti come questo c'è, però poi bisogna convincere la gente che il cinema rimane uno dei posti più sicuri al mondo in questo momento. Beh, lo è, il cinema lo è, nel senso, possiamo entrare con la mascherina, tenere la mascherina tutto il tempo, avere un distanziamento fisico, chiamarlo sociale, mi pesa sempre di più, un distanziamento fisico dalle altre persone, io credo che è uno dei rari posti dove possiamo condividere un'esperienza con altre persone così sicuri. Quindi, con tutte le prudenze del caso, ma io penso che ognuno di noi sente che dobbiamo ricominciare anche a ritrovare delle esperienze normali. Io credo che nessuno voglia finire nel lockdown, ci siamo rimasti anche un po' impigliati mentalmente, psicologicamente, è importante reagire, è importante fare quel passo, certo, ripeto, con prudenza, però dobbiamo andare avanti, finché si può dobbiamo andare avanti. E allora andiamo avanti con Lasciami Andare, con i film in sala di questa settimana, grazie a Stefano Accorsi. Grazie a te e un saluto a tutti. Stefano Accorsi alla Rosa Purpurea per parlarci di Lasciami Andare, e noi invece siamo pronti a lasciare andare la seconda traccia del film misterioso di oggi. A me sembra ieri che stiamo sempre insieme, appiccicati dalla mattina alla sera, alle cose che ci fanno stare bene. Ciao. Un film su un'amicizia che passa il tempo, che lo supera e che in fondo sembra indistruttibile, uno dei film più importanti della scorsa stagione cinematografica. Se ne avete indovinato il titolo, scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due DVD che vi aspettano, fra poco vi sveliamo tutto prima della fine di questa puntata. Trasferiamoci a Mantova adesso, dopo aver raccontato i film più importanti di questa settimana, dove proprio questa settimana, nel centro, nel cuore della settimana, si sono svolte le giornate del cinema d'essai, organizzate dalla FICE, dalla Federazione Italiana dei Cinema d'essai, per dare i premi annuali ai migliori cinema di ai migliori film di qualità, ai film che meglio hanno sposato pubblico e appunto critica in qualche modo. Premiati tanti film, tanti attori, migliore attrice Sara Serraiocco, miglior attore Elio Germano, che sentiremo fra poco, però il miglior regista è comunque il film che più ha saputo coniugare appunto box office e qualità, è stato considerato e giudicato il film di Ferzan Özpetek, La Dea Fortuna. E allora ascoltiamolo Ferzan Özpetek, che abbiamo avvicinato a Mantova, a raccontarci un po' la gioia per questo premio e anche qualche cosa di più. Sì, è enorme, enorme, mi fa molto piacere, perché poi successo così, per esempio, quando ho fatto Le Fate Ignoranti, subito dopo La Finestra di Fronte, quelle che dicevano concilia le due cose, la critica e il pubblico, e il film d'arte di sé e col pubblico. Ma secondo me anche questo è un concetto abbastanza, secondo me, da discutere, nel senso, comunque ci sono i film che emozionano, si rivolgono al pubblico, e non vuol dire che non abbiano la qualità, insomma. Questo è, a me questo premio ci tengo molto, mi fa molto molto piacere, mi piace molto. Un film, La Via Fortuna, che ha vissuto anche una felicità, secondo me, di cast, aver messo insieme Edoardo Leo e Stefano Corsi è stata, secondo me, una scelta vincente. Tu a posteriori come la giudichi? No, ma io li ho scelti nel senso che perché li trovo giusti per i ruoli, per le parti. Edoardo, la prima volta che lavoravo insieme, è stata una cosa, una gioia veramente. Con Stefano ci vediamo anche al di fuori, un fratello. L'altro giorno dicevo: ma tu potresti essere mio figlio? Dico: no, abbiamo fatto il calcolo, è impossibile, è un fratello per me, è un attore che non ho bisogno di dire tante cose, capisce anche con sé. Noi abbiamo avuto anche un gruppo insieme a Jasmine, insieme Edoardo, Stefano, ne parlavamo delle scene. Per esempio, ci sono alcune scene, addirittura quelle della nave, dove c'è la scena famosa del litigio col ketchup, l'abbiamo scritto mezz'ora prima io, Gianni Romoli, con la partecipazione di Edoardo, di Stefano, cioè eravamo sul film. E questi sono degli attori che ti danno molto, nel senso che io ho bisogno dell'attore per scambiare delle idee, delle cose, assolutamente. Ferzan Özpetek, che avete visto, era proprio la settimana di Stefano Corsi. Ferzan ne ha parlato molto bene, in maniera molto lusinghiera. Anche in questa breve intervista ne abbiamo realizzato una più lunga, ve la proporremo nelle prossime settimane, perché ci ha detto molto anche del futuro Ferzan Özpetek. Adesso però lì alla viabilità, fra poco l'altro grande premiato, Elio Germano, il suo anno straordinario fra il Ligabue di Volevo Nascondermi e Favolacce, sarà qui con noi a raccontarci appunto la gioia per questo premio del cinema de sé, fra poco. Dalla robotica all'intelligenza artificiale, dalla nanomedicina ai materiali bioispirati, dalla blockchain alle tecnologie per la sostenibilità. Con Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, apriamo una finestra sul futuro. Tante notizie da tutto il mondo, commentate da alcuni dei nostri migliori scienziati. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Radio 24. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme, quarta parte della Rosa Purpurea. Riprendiamo da dove avevamo lasciato, da Mantova, delle giornate di cinema de sé, nelle quali le sale cinematografiche, gli esercenti, hanno voluto anche dare una dimostrazione di resistenza. La manifestazione è andata molto bene, tutta nella massima sicurezza, e anche il cenno di dire: noi ci siamo e le sale cinesche dei nostri cinema sono aperte, perché vogliamo dire al pubblico che il cinema è un posto dove si può andare in tutta sicurezza. E anche sono stati mostrati molti film e molti trailer della prossima stagione, molto interessanti. È una stagione che sul piano del cinema de sé, del cinema europeo, del cinema indipendente, ha molto molto da dire. Casomai per il momento i rinvii hanno colpito la parte mainstream, la parte blockbuster, diciamo, del mercato cinematografico, ma quella del cinema di qualità, del cinema de sé, appunto, è assolutamente florida. Ritorniamo ai premi. Premiato Özpetek, premiato anche Elio Germano, assolutamente miglior attore di questo scorcio di 2020, con una coppia di film diversissimi fra loro, fra l'interpretazione straordinaria in Favolacce dei fratelli d'Innocenzo e quella del Ligabue di Giorgio Di Ritti in Volevo Nascondermi. E da qui parte Elio Germano al nostro microfono per commentare questo premio. Ma è come al solito, insomma, la casualità, i premi sono sempre accidentali o incidentali. Per dire, questi sono due film che ho fatto proprio in due anni anche diversi, e hanno avuto poi il caso di essere proposti insieme allo stesso anno, allo stesso festival, addirittura al Festival di Berlino. Quindi anche forse il premio stesso che mi hanno dato per il film Volevo Nascondermi è stato anche frutto forse di questa somma di questi due lavori, che del tutto casualmente sono arrivati insieme a Berlino. E quindi appunto arriva, come dire, come restituzione questo anno di fatiche fatte in momenti diversi, come al solito Cioè, i premi fanno piacere per quello, perché in qualche modo sono come uno si vive una specie di così carriera solipsistica, per cui pensa soltanto a quello che può averli portato in termini di soddisfazione o cosa, ma invece in premio ti istituzionalizza in qualche modo, no? E ti storicizza, quindi vuol dire che ancora faccio questo lavoro e riesco a farlo, insomma, a livelli in cui le cose a cui partecipo sono riconosciute anche a livello internazionale, insomma, quindi ecco quanto questo è una grande soddisfazione sicuramente. C'è qualcosa, diciamo, di te in più nell'interpretazione di un Ligabue modernissimo che hai proprio, tra l'altro faticosamente, come dire, accostato a un altro gigante della recitazione come Flavio Bucci, nell'immaginario collettivo c'era lui fino adesso, invece adesso c'è anche il tuo di Ligabue, o in questo malessere tenuto sotto traccia ma sempre pronto ad esplodere o a implodere di favolacce, cioè dove ti sei sentito un pochino più vicino e più moderno in qualche modo? Ma sai, noi facciamo un lavoro un po' strano, per cui interpretiamo sempre qualcos'altro, no? Sempre altro da noi, e spesso proprio l'altro da noi ci libera delle cose interne che poi abbiamo tutti, no? Ma spesso teniamo attappate rispetto alla vita che facciamo. Quindi, sai, passando per il mio corpo, io non posso fare a meno che identificarmi in tutti i personaggi che interpreto e non identificarmi con nessuno, nel senso che anzi, a volte mi piacerebbe essere così, a volte insomma mi spaventerebbe moltissimo, e meno male che non lo sono, per cui è un gioco di continui rimandi dove si fa fatica, insomma, già capire come sono fatto io, insomma, è una fatica troppo, troppo grande per capire a cosa assomiglio. E anche Elio Germano ci ha raccontato un po' il suo momento a Mantova, le giornate del cinema d'Essè. Noi a questo punto andiamo avanti perché dobbiamo tornare indietro di 7 giorni e riascoltare un frammento del nostro film misterioso della settimana scorsa. E sto lì, senti sto lì, queste sono greche, sai? Grechi! No, dai, sono grechi! Sono buoni. Come sono? Dì la verità! Sono greche. Non poteva che finire così. Borotalco di Carlo Verdone, hanno indovinato per primi Andrea Ciangherotti di Firenze ed Emilio Mariani che ci ascolta da Ginevra, pensate, dalla Svizzera, siamo una rosa purpurea internazionale. Loro riceveranno il Blu-ray di Borotalco, che è una vera prima volta, una vera novità, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, dopo anni di fregolismo, un Verdone verso la normalità che si gioca la carriera. Leone lo ha lasciato e senza produttore inizia a dubitare di sé, poi incontra Mario Cecchigori che accetta un film completamente diverso dai suoi precedenti. Un solo personaggio, una storia delicata, non un film di sketch ma una commedia all'italiana matura su un'umanità dolce, debole, tenera, con una bellissima colonna sonora di Lucio Dalla. Vinse 5 David di Donatello e fu la consacrazione per Verdone. Qui in un DVD che è riproposto da Mustang Entertainment per la serie Cineteca di Gianni Canova, da non perdere. Giulio, come sempre un paio di segnalazioni dai palinsesti televisivi in chiaro della prossima settimana. Cominciamo con lunedì, quando in prima serata alle 21:15 su Cielo c'è La vita di Adele. Non lo so, è il tipo di donna che mi piace, un qualcosa. Non devi essere gelosa, anche tu sei molto carina. Non sono gelosa. Sicura? Sì. Comunque tu lo sai. Che cosa? Che sei davvero carina. Adele ed Emma sono giovani, si innamorano, poi sono una coppia, convivono, ma l'abisso tra i loro ambienti sociali, le marchia, le ferisce e le separa. Un grande film di Abdelatif Kashish, Palma d'Oro a Cannes, un film di attrici, di corpi che amano, godono, soffrono, un film di lacrime e sudore, di lingue tese, tremanti, di bocche affamate, assetate d'acqua e vogliose d'umore. Un film che fa musica affastellando particolari e dettagli, cercando l'emozione tracciata dai piccoli gesti, e un film che accumula primi piani nella lunga durata, nel cinema scope, concedendo il tempo e lo spazio perché un volto, uno sguardo, un sospiro si facciano paesaggio interiore. Una bellissima, struggente, drammatica storia d'amore, cinema che sta tra il teatro e la migliore televisione, che legge Marivaux e guarda John Cassavetes. E questo era La vita di Adele di Kashish, lunedì, sempre lunedì, ma alle 22:15, quasi in contemporanea, in parziale sovrapposizione, fate una scelta, su Rai 5 c'è La Cabadora. L'hanno trovata a faccia in giù, ha un dito rotto, meno male che il resto è sano, mi passi la spazzola. Dal mio paese partivamo di notte a piedi, per venire fino a qui alla sua festa. L'accabbadore è quella che nel mondo rurale poneva fine alla sofferenza degli incurabili, una figura della quale l'antropologia si è occupata a lungo ed è il fulcro intorno al quale Pau, Enrico Pau, mette in scena il passaggio della Sardegna verso la modernità. Ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il film coglie la lacerazione appunto tra un universo ancestrale e una modernità agognata e temuta annunciata dalle bombe dagli alleati. Interpretato da una Donatello Finocchiaro essenziale e concreta, il film è il tentativo coraggioso riuscito di Enrico Pau di separarsi dall'atmosfera urbana e noir dei suoi primi lavori per abbracciare un racconto storico complesso con un approccio umanista e politico che richiama il cinema settantesco di Mauro Bolognino, Vittorio De Sica. Il viaggio ancestrale in una Sardegna piena di ritualità nella Cabadora con Donatella Finocchiaro, Carolina Crescentini e Sara Serraiocco. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, come sempre l'epilogo è lo svelamento del film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Gli anni più belli di Gabriele Muccino, uno dei film che hanno dominato la parte pre-Covid, diciamo, della scorsa stagione cinematografica. Prossima settimana i vincitori, prossima settimana ancora tanto buon cinema qui a Radio 24 alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti. È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.